Next one. Ancora. Ancora un'altra sera. Sì, un'altra sera. Un'altra sera da solo con me stesso. Potrei uscire, resto a casa, va bene lo stesso. Premo un bottone, accendo la televisione. Non danno niente, un'altra serie, cazzate e pallone. E puntualmente un coglione che parla del paese. Scelte sbagliate come se fosse lui a farne le spese. Era diverso da bambino guardando lo schermo. Senza filtri né giudizi non c'era l'inferno. O meglio c'era, ma non lo vedevo. Gli occhi fissi su un cartone in bianco e nero, un canale straniero. E non capivo una parola, poi arriva la scuola. Il primo giorno ero contento, guardo mamma e si emoziona. Ci misi poco a capire che era un imbroglio. La scuola è una prigione in cui reprimono ogni tuo sogno. Ma rosto realizzando il primo, l'unico sopravvissuto. L'unica vena che il sistema non ha mai reciso, mai. Il primo non si scorda. Il primo non si scorda. Come quando cadi saltando la corda. Il primo non si scorda. Da un'esperienza nasce un'altra, poi un'altra ancora. Dammi la forza per rifarlo e non mollare ora. La prima volta che proviamo un'emozione nuova, il primo passo non si scorda la prima parola. È proprio strano come vanno le cose e come sono cambiate le mode. Una volta il rap era solo per pochi fra, e io uno degli sfigati che si ascoltava J-Ax. Il primo giorno di sole, ora la notte nel cuore. Il primo paio di scarpe che ho consumato le suole. La prima volta su una giostra vuoi rifarla per ore, come noi la prima volta che abbiamo fatto l'amore. Le mie prime paure, le tempeste. Il primo videogioco nel cuore, Jack and Dexter. Il mio primo errore, la prima bugia, io non la ricordo ma sicuro non è stata colpa mia. Il primo bacio, il primo amore non si scorda mai. Tante le prime cose che hai fatto e che ancora farai. Il primo dito puntato, il primo lavoro lasciato. Il primo spino fumato con tutto che gira per tutta la sera, io non l'ho dimenticato. Il primo non si scorda. Il primo non si scorda. Tu l'hai dimenticato, tua mamma lo ricorda. Il primo non si scorda. Da un'esperienza nasce un'altra, poi un'altra ancora. Dammi la forza per rifarlo e non mollare ora. La prima volta che proviamo un'emozione nuova, il primo passo non si scorda la prima parola. No, non ce la faccio a fare un pezzo tranquillo, anche se parla d'amore e di romanticismo. Finché c'ho dentro questo demone che vuole uscire, sono pericoloso, lo volete capire? Doveva capirlo mia mamma al mio primo strillo, che mi sarei fatto spazio nel mondo con la voce. Non mi importa se sui pezzi sono sempre feroce. Se non riesci a starmi dietro sono troppo veloce. Troppo. Sogno, il primo giorno, la prima volta che ho sentito il corpo, pervaso dall'orgoglio, quando ho capito che la vita è breve, sì. E non sprecarla era il mio dovere, yeah. Io mi ripeto che sta vita è mia, yeah. La prima e l'ultima, e così sia. Il primo non si scorda. Il primo non si scorda. Papà che spinge la bici, ti giri e non c'è più. Capisci che a pedalare sei solamente tu. Da un'esperienza nasce un'altra e poi un'altra ancora. Dammi la forza per rifarlo e non mollare ora. La prima volta che proviamo un'emozione nuova, il primo non si scorda. Non si scorda.